Alessio Marchetti, da Praga, dove vive e lavora, essendo un giornalista indipendente, ci illumina su un terremoto che sta comunque per sconvolgere il nostro continente, cioè l'Europa. Ovvero, il primo maggio sarà un momento storico per l'Europa. Basti pensare che 7 nazioni dell'Europa centro-orientale, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Estonia, Lituania e Lettonia, alle quali poi vanno aggiungersi anche Malta e Cipro, entreranno definitivamente a pieno titolo nell'Unione Europea. Insomma, tra meno di un mese si concluderà un processo di avvicinamento tra le repubbliche ex sovietiche e l'Europa occidentale, iniziato fin dal 1988, tra l'allora CE e il Comecon. Attualmente queste repubbliche sono considerate un po' come dei figli di un dio minore all'interno dell'Europa. Non va dimenticato infatti che moltissime aziende, e ahimè soprattutto quelle con le lavorazioni più inquinanti o quelle che naturalmente non avendo alcuna copertura sindacale offrono la sponda a salari ancora oggi di miseria, vengono utilizzate dalle grandi multinazionali europee, ma anche dagli imprenditori piccoli e medi, italiani in particolare, per fare le loro lavorazioni a costi molto bassi in quelle aree. Cambierà qualcosa? Non lo possiamo ancora naturalmente dire. Certo, c'è un entusiasmo, diciamo così, diffuso, ma anche timori nella popolazione e rimangono molteplici gli interrogativi, nonostante una fortissima campagna pro-Europa dell'attuale governo socialdemocratico, del non proprio amatissimo Spidla. I cechi infatti hanno paura che l'entrata in Europa possa cambiare in peggio alcuni aspetti della loro vita, con un'evidente crescita della disoccupazione e un rialzo dei prezzi che non potrebbero davvero sopportare. Tuttavia, secondo alcuni analisti economici, le cose nell'immediato futuro non dovrebbero poi cambiare più di tanto. Il problema naturalmente rimane sempre quello degli accordi di Schengen, ovvero della limitata possibilità di circolazione delle persone di questi paesi ancora per 2 anni all'interno dell'Unione Europea, cioè, come dire, ancora una volta entrano i capitali, entrano le istituzioni, ma i cittadini rimangono a guardare. Schengen in fondo questo ha prodotto: eravamo tutti stranieri all'estero, ora alcuni di noi sono extracomunitari. Roberto Di Nunzio, reporter associati per Amisnet Radio.